te come che cosa non lo so. La macchina, la radio, il rock and roll, più di Justin e Dale, Jack and Rose. Io e te ti aspetto qui, tu dove sei, che fai, non vieni? Domani è tardi e non spariscono i problemi. Ti fingi ghiaccio e poi ti sciogli, anche se sai che non ti puoi fidare di un bugiardo come me, che ti fa vedere il mare e poi scompari in un caffè. E ho cercato parole diverse per dirti un segreto che avevo perduto. Siamo bravi ad urlarci cazzate, ma stiamo in silenzio per chiedere aiuto. E ti giuro che ci sarò, e tu dimmi se ci sarai anche nei giorni bui. Io e te come che cosa non lo so. La macchina, la radio, il rock and roll, più di Justin e Dale, Jack e Rose. Io e te, io e te. Sai bene che io mai ti scorderò, nemmeno dopo 100.000 shot. Tra le strade ti guarderò, mentre sola tu ballerai, tu una luce anche a New York. Io ti aspetto, ma so già che tarderai. Eravamo io e te, una fotografia, o qualche ricordo che annebbia la vista. Lo so che non sono chi vuoi che io sia, e mi chiedi com'è, non è niente di che. Ma ormai la tua assenza ha lasciato un'impronta che resta, non vuole andar via. Piove, ancora piove, i tuoi messaggi, i miei silenzi mascherati da tempeste di parole. Tante parole, mille ricordi che ora sono una canzone. Io e te come che cosa non lo so. La macchina, la radio, il rock and roll, più di Justin e Dale, Jack e Rose. Io e te, baceremo per tutta la notte dentro un mare di mille promesse. Ti prometto che ogni nostro bacio sarà come perdersi dentro per sempre. E dimmi se mi ami o devo ripassare. È bastato uno sguardo per farci innamorare.